Tutta scena cinema su Radio Onda Rossa, lo spazio settimanale dedicato alla settima arte, il giovedì alle ore 14. Tutte le informazioni, i podcast delle interviste, l'archivio delle puntate sono sul sito internet ondarossa.info, la voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Con Claudia Bedogni di Satin Film, che distribuisce il film Crescendo, Make Music Not War, di Dror Zahavi, al cinema dal 27 agosto 2020 e al Cinevillage Parco Talenti, proiezione e incontro giovedì 10 settembre 2020. Claudia, ben trovata. Buongiorno Federico, ben trovato e grazie come sempre per l'invito. Raccontiamo questo film brevemente. Rientra perfettamente nella filosofia Satin, che come tu sai è quella di pensare al cinema non solo come un luogo di intrattenimento e di sogno, ma anche come possibilità di veicolare messaggi importanti. È un film che abbiamo particolarmente amato, una piccola scoperta ai German Screenings a Düsseldorf l'anno scorso, è una produzione italo-tedesca e racconta una storia che è liberamente ispirata alla storia vera dell'orchestra Westin di Van Orchestra, creata e voluta dal maestro Daniel Barenboim e dallo studioso Edward Said. Liberamente ispirato perché in realtà, come dice appunto il regista Dror Zahavi, il film potrebbe essere ispirato a tutte le orchestre israeliane e palestinesi, a tutti coloro che hanno cercato attraverso la musica di creare comunicazione tra questi due popoli eternamente in lotta. Quindi c'è un messaggio molto bello, molto forte, perché parliamo di giovani orchestrali che attraverso il potere della musica riescono a mettere da parte, o almeno ci provano attraverso l'attività e l'abilità di questo maestro che nel film è impersonato da appunto Spork, che ribadisco e ci tengo a precisare non è un biopic di Daniel Barenboim, ma è una storia di finzione, però lo spirito è quello, è lo spirito appunto originario del maestro Barenboim, che è quello di creare comunicazione in una terra dove purtroppo comunicazione non c'è nel modo più assoluto. Quindi è un film importante, al di là del fatto che è un film comunque che intrattiene, il pubblico ha reagito molto bene, purtroppo con le difficoltà del periodo che tutti conosciamo, perché c'è molto timore nell'andare al cinema e questo è assolutamente comprensibile, quindi le restrizioni, anche se tutti gli esercenti si sono attivati nella massima sicurezza per garantire appunto serenità al pubblico anche all'interno di spazi chiusi. Però è ovvio che questo tipo di cinema viene penalizzato, anche perché è un cinema che beneficia di un passaparola, però siamo molto felici perché il messaggio è arrivato forte e chiaro. Io personalmente ho accompagnato le varie anteprime in giro per l'Italia, quindi ho parlato con il pubblico proprio per capire un po' se c'è ancora interesse verso questo tipo di cinema che noi cerchiamo di sostenere e mantenere vivo con tutti i nostri sforzi, però un cinema che comunica oltre a intrattenere, e devo dire la risposta è stata molto bella. E tant'è che stiamo organizzando proprio per rafforzare e dare ancora più vigore all'argomento del film un bellissimo incontro giovedì 10 al Cinevillage a Roma, alla presenza di chi conosce bene la situazione nel territorio, ovvero Luisa Morgantini, presidente di Assopace Palestina, già vicepresidente del Parlamento Europeo, Monio Bagna, che non ha bisogno di presentazioni, grande uomo di teatro e anche grande attivista, e Riccardo Nuri, appunto portavoce di Amnesty International Italia, un evento che è organizzato insieme alla collaborazione dell'Accademia Giorgio Costantini, che si occupa di valorizzare le arti, e in collaborazione con Giovanni che è anche il Cinevillage. Quindi sono contenta quando c'è questa sinergia comune, no? Di persone che si occupano di cose diverse ma che trovano un obiettivo comune di cui parlare per poter appunto sensibilizzare su situazioni di cui c'è, credo, tanta poca conoscenza e tanta invece necessità di apprendimento. Claudia, quali aspetti hai apprezzato maggiormente di questo lavoro? Innanzitutto io sono per mia natura melomane, quindi già l'idea, questo lo devo dire, tra l'altro ho avuto anche la fortuna, è stato pure una serie di casualità, il maestro Daniel Barenboim, che già seguivo, appunto conoscevo per la mia passione per la musica, è stato tra l'altro insignito dalla stessa università dove io ho studiato e sono laureata, la Cesare Alcieri, la prestigiosa Cesare Alcieri di Firenze, proprio della laurea honoris causa in relazioni internazionali, proprio per la sua attività con la Divan Orchestra e il suo tentativo appunto di creare fratellanza attraverso la musica. Questo devo dire è un elemento che è di grande fascinazione, quindi sapere che c'era una storia, anche se liberamente ispirata, ma che valorizzava in questo modo la potenza della musica, ho trovato sicuramente un elemento di grande forza nel film. In più ho apprezzato tantissimo il fatto che, venendo poi dall'esperienza dei due film palestinesi che hanno avuto anche un bel riscontro in Italia, ricordate Wajib e Sare Salim, in questo caso il film invece è diretto da un regista israeliano che però ha avuto la lucidità e l'onestà di rappresentare la realtà del suo territorio in modo assolutamente appunto onesto, distante e facendo soprattutto vedere in modo forte e chiaro le diverse opportunità che hanno i giovani nei rispettivi territori. È stato apprezzato anche per questo il film fotografa, non prende posizioni, noi ci siamo abituati un po', tutte le volte che si parla di Israele e Palestina inevitabilmente diventa un discorso politico, in questo caso il film ha un approccio umano e soprattutto un approccio importante perché fa vedere la sofferenza dei più giovani e l'ingiustizia che hanno proprio nel poter realizzare il proprio sogno, perché vivono in un territorio tormentato dove per loro è anche difficile poter studiare e anche solo difficile poter essere vicini e sublimare un evento così importante come la realizzazione di un concerto. Quindi credo che ci siano degli aspetti molto belli, il tutto coronato comunque da una cinematografia che è assolutamente apprezzabile, quindi è ben diretto, è un film molto semplice, molto pulito, molto onesto e credo che il pubblico l'abbia apprezzato per questo. Che alla fine commuove e grazie anche a interpretazioni mirabili dei giovani, alcuni hanno veramente suonato con la Divan Orchestra, e anche sui giovani attori di origine israeliana appunto o araba, e poi su tutti svegli per la figura del maestro che è lo straordinario Peter Shimonishe, che già abbiamo apprezzato nel Tony Erdmann che gli fece vincere appunto l'Oscar europeo, l'European Film Awards qualche anno fa. Quindi devo dire che sono tanti gli elementi, però ci tengo anche a ribadire che è un film importante, infatti ringrazio, approfitto per ringraziare la critica cinematografica e la stampa che hanno colto un aspetto importante, cioè l'aspetto diciamo educativo, anche se non mi piace molto questo termine, però diciamo il fatto che aiuta questo film soprattutto per i giovani è un messaggio importante, perché al di là della contestualizzazione questa terra appunto dilaniata e travagliata, fa vedere quanto sia importante la comunicazione, il mettersi nei panni dell'altro, e questo è un messaggio importantissimo. E infatti la stessa critica cinematografica ha detto un film che probabilmente nelle scuole dovrebbe trovare un'ampia circolazione, proprio perché è importante che i giovani capiscano, soprattutto in questo momento storico, quanto è significativo ascoltare l'altro, che è un po' quello che diceva Daniel Barenboim quando ha avuto la fortuna di presenziare appunto alla sua ricezione della laurea per honoris causa, che ha detto il problema non è un problema politico in Palestina, è un problema di comprensione essenzialmente, di mettersi nei panni dell'altro, e questo vale un po' per tutti i contesti, cercare di fare un passo indietro e vedere non solo le regioni, ma anche quelli magari no, della persona che la pensa diversamente da noi, però ci può essere un modo per trovare un terreno comune in virtù di un obiettivo più grande, più importante, che possa essere di reciproca soddisfazione per entrambe le parti. Crescendo, Make Music Not War di Dror Zahavi al cinema da giovedì 27 agosto 2020 e al Cinevillage Parco Talenti, proiezione incontro giovedì 10 settembre 2020. Un saluto e un ringraziamento a Claudia Bedogni di Satin Film che lo distribuisce. Un abbraccio, un in bocca grazie al lupo a voi. E a presto. Grazie, grazie Crete, grazie per la visibilità e lo spazio che ci date sempre. Grazie ancora Federico, a presto. Con Mauro Mancini, regista del film Non odiare, al cinema da giovedì 10 settembre 2020. Ben trovato. Grazie dell'invito. Ciao a tutti. Come lo descriveresti il tuo lavoro? È stato un percorso molto, molto lungo che sta dando dei frutti meravigliosi. Siamo qui alla Mostra del Cinema a presentarlo. Stata proprio la proiezione ufficiale qualche ora fa ormai, e sono ancora nel turbinio delle emozioni. È un lavoro che trae spunto da un piccolo fatto di cronaca che io, lo sceneggiatore della Cisino, abbiamo letto ormai qualche anno fa. Un medico di origine ebraica si era rifiutato di compiere un'operazione in realtà di routine su un uomo che aveva in Germania, su un uomo che aveva un tatuaggio nazista sulla pelle, perché a suo dire quell'operazione andava contro la sua coscienza. Questo piccolo fatto di cronaca che abbiamo letto su uno dei taccuini che Davide custodisce gelosamente, dove appunta tratti di cronaca e spunti che gli vengono in testa, insomma, poi li condivide con me spesso, ci ha permesso di iniziare la narrazione del nostro film. Noi in realtà quella stessa scena abbiamo ipotizzato di metterla in scena forzandola drammaturgicamente, mettendo ovvero il protagonista, che è Alessandro Gassman, Simone Segre si chiama il personaggio che interpreta, uno stesso medico di origine ebraica, un vicolo cieco, cioè con una scelta che ha a che fare con la vita e con la morte, perché lui si ritrova in un luogo ameno a soccorrere la vittima di un incidente stradale e, essendo un medico, può salvarlo, comincia a salvarlo aspettando che arrivi l'ambulanza, ma poi si accorge che quest'uomo ha un tatuaggio nazista sul petto e a quel punto in realtà fa una scelta molto forte, slaccia questo laccio emostatico dalla femorale che aveva messo e lo lascia morire. Questo gesto causerà in lui un enorme senso di colpa che poi andrà a guidare tutto quanto il film, perché non vi svelo troppo, altrimenti poi non andate più al cinema a vederlo. Però questo è, diciamo, l'incipit del film. È un film che sicuramente parla dell'eredità che i padri lasciano ai figli, è un film sulla memoria e sulle memorie, ed è un film ovviamente sull'odio, si chiama Non odiare. È un film che sicuramente vuole spingere lo spettatore a riflettere, più che a dare domande, a spingere lo spettatore a riflettere su che cos'è l'intolleranza oggi, su che cos'è questa parola, l'odio, che tanto mi sembra abbia preso il sopravvento nelle nostre vite quotidiane. Ecco, rispetto al fatto di cronaca, su cosa hai voluto centrarti? Sul cercare di non giudicare i personaggi, ma lasciare allo spettatore l'obbligazione negli occhi nel vedere delle vite che possono essere il più possibili reali, quindi tutte le proprie contraddizioni. È un film che sicuramente il cui fuoco centrale sono le contraddizioni umane, a partire dalla grande contraddizione che può avere un medico che si rifiuta di salvare un'altra vita, perché è la più grande contraddizione che c'è poi nel film, no? Da cui scaturisce tutto quanto il dilemma morale e etico di quest'uomo interpretato da Gassman. Come hai strutturato, come hai lavorato alla costruzione del film? È stato in realtà un processo abbastanza canonico a livello temporale, diciamo di tensione temporale, rispetto a un classico esordio in Italia, quindi con i ripassi necessari che ogni produttore, Mario Mazzarotto, è stato molto abile nel costruire il team con cui poi io mi sono ritrovato a lavorare. Ne abbiamo scelti sempre insieme ovviamente i nostri collaboratori, ma il team produttivo è formato ovviamente da Mario Mazzarotto, che ha un nuovo movimento film, con Rai Cinema, e con Notorious Pictures, che invece distribuisce il film. È una coproduzione Italia-Polonia, con questa casa produzione che si chiama Agrestina Banda. Il Ministero italiano e il Ministero polacco ci hanno dato un contributo, ci hanno aiutato, la Film Commission di Trieste ha chiuso il cerchio a livello produttivo, mentre a livello creativo il film è scritto insieme a Davide Lisino, che è il mio partner e socio nella scrittura di questo film. È stata una scrittura in realtà molto fluida, a partire da questo evento che ha scatenato poi l'idea. Siamo stati abbastanza rapidi anche nel costruire la prima stesura, nel prendere la prima stesura. Per quanto riguarda le azioni, è successa una cosa molto curiosa, probabilmente unica, anche molto bella, perché mentre scrivevo, Davide mi chiedeva spesso: chi immagini nel ruolo di Simone Segre, chi immagini nel ruolo di Marica Minervini, che sono i due protagonisti adulti del film? E io spesso mi trovo a dire: Simone mi piacerebbe che fosse Alessandro Gassman e Marica sarà Terra Iocco. Poi è successo quello che spesso è incredibile, insomma, che tutti e due fossero incuriositi dal leggere questa sceneggiatura, l'hanno apprezzata subito, sono saliti a bordo abbastanza velocemente. Mentre per quanto riguarda Luca Zunic, che interpreta Marcello, è un ragazzo di 18 anni, è stato molto più lungo il percorso, perché abbiamo fatto dei lunghissimi provini. Non riuscivo a trovare subito questo ragazzo, che avevo le idee molto chiare su cosa volessi. Volevo un ragazzo che esprimesse una rabbia repressa, ma anche una grande fragilità celata in qualche modo, no? Soppressa. Quando ho incontrato Luca, in realtà mi è arrivato al provino questo ragazzo che aveva i capelli biondo platino, le scarpe da ginnastica enormi, vestito da un po' da rapper, con una... linguaggio tutto suo, molto giovanilistico, quindi completamente distante da quello che poi è Marcello nella nostra storia. Però in qualche modo mi aveva molto incuriosito, ho pensato, ho sperato nel mio cuore che si potesse fare un buon provino. Così è stato, fortunatamente. Era ancora, insomma, di avanti credo, perché Luca è al debutto, anche lui è il suo primo film, quindi era tutto da lavorare, insomma, un diamante da lavorare, e abbiamo fatto secondo me un buon lavoro. E Alessandro Gassman e Sara Terraiocco sono stati, da questo punto di vista, centrali, perché sul set l'hanno trattato sempre alla pari, cosa che soltanto i grandi attori sanno fare con un esordiente, no? Sai quanto è facile, ovviamente, per un attore della portata di Alessandro, insomma, poter fare la star. Ecco, questo non è stato nel nostro caso. È un attore molto generoso, Alessandro, e l'ha aiutato molto, devo dire. Invece, rispetto alla realtà, la situazione che stiamo vivendo, idea ti sei fatto, ad esempio, rispetto a tutto l'odio che scorre sui social e alla perdita di memoria? Sono due temi che affronta il film in modo ovviamente non diretto, ma chiaramente trasversale rispetto alla narrazione. E l'idea che mi sono fatto è che stiamo vivendo un periodo storico molto pericoloso da un certo punto di vista, perché c'è una facilità molto quotidiana nell'odiare, nel seguire un certo tipo di intolleranza e addirittura farsene quasi vanto di essere intolleranti o, capito, di cavalcare un odio che è sempre più strisciante. Credo che la cosa fondamentale sia assumersi la responsabilità di non essere più indifferenti davanti ai episodi di intolleranza e di odio che si consumano ormai quotidianamente. Ecco, questo film non vuole essere indifferente, vuole dire a gran voce che c'è una possibilità di dialogo anche tra chi non ti riconosce, anzi forse anche proprio tra chi non ti conosce ci dovrebbe essere dialogo e ascolto in qualche modo. Forse bisogna smettere di pensare all'altro, al diverso da noi, quello che consideriamo diverso, che ha delle idee diverse da noi, come un nemico solo da abbattere, da castigare come se ci fosse un tifo da stadio, sempre perenne, ma invece aprirci a un dialogo e aprirci a una comprensione, questo non per convincere l'altro probabilmente di quello che no, vogliamo noi, ma per capire anche le motivazioni, solo se forse cominciamo a capire le motivazioni che portano all'odio, che portano all'intolleranza, possiamo cominciare a costruire per un futuro migliore, un futuro in cui c'è più dialogo, c'è più ascolto. È molto facile distruggere, no? Molto molto più complesso invece ricostruire e costruire qualcosa tutti insieme. Ecco, questo forse è il messaggio del film, anche se io non credo nei film che portino un messaggio, credo nei film che pongano delle domande, e questo spero che lo faccia. In quante sale? Saremo in tantissime sale, in questo momento non so dirti il numero esatto delle copie, usciamo il 10 di settembre in tantissime sale in tutta Italia, sia nel circuito Cina, quello che vanno chiamato circuito Cina, sia nelle multisala, con un'ottima copertura. Andorius Pictures, che distribuisce il film, sta facendo un ottimo lavoro. Non odiare, un saluto e un ringraziamento al regista Mauro Mancini. Un abbraccio, in bocca al lupo, a risentirci presto. Viva il lupo, grazie. Con Danilo Caputo per parlare del suo film Semina il vento, al cinema da giovedì 3 settembre 2020. Danilo, ben trovato. Grazie Federico, buongiorno a tutti. Come lo descriveresti il tuo film? Allora, il mio film lo descriverei come sicuramente la storia di una ragazza che è tornata a casa, trova una situazione catastrofica alla quale tutti si sono abituati, tranne lei, e quindi sente il bisogno di fare qualcosa, di rompere questo muro di rassegnazione per cambiare le cose. Quindi una storia di ribellione, ma anche una storia ottimista. Come è iniziato tutto? Allora, tutto è iniziato perché io abito in provincia di Taranto, in realtà poi ho vissuto anche molto all'estero, però quando sono in Italia sono in provincia di Taranto e mi faceva riflettere molto ogni volta che torno a casa e che sono qui, la rassegnazione dominante. Questa sensazione che non ci sia nulla da fare, che non si possono cambiare le cose, che le cose stanno così e in qualche modo questo ci tocca. E quindi chiaramente parlo dell'inquinamento dell'ex Silva, ma anche di tante altre piccole cose, a partire dalla gente che ormai butta la spazzatura in campagna, piuttosto che penso anche a quello che sta succedendo con la Xylella. E quindi avevo voglia di immaginare un personaggio che va contro questa rassegnazione, che prova a ribellarsi, ed è lì nato il personaggio di Mika. Come hai pensato alla costruzione del film mettendo insieme tutti questi elementi da cui sei partito? È stata una costruzione delicata, un percorso anche lungo. Io ho cominciato a lavorare nel 2015, prima con dei produttori francesi, Jacques e Marianne di GBA Produzione, e poi con loro abbiamo trovato Paolo Benti, il produttore italiano. E l'equilibrio che cercavamo era un equilibrio tra una storia con degli elementi di denuncia e al tempo stesso non volevamo fosse soltanto un film sociale, volevamo fosse anche un film che raccontava una storia umana, che quindi facesse riflettere proprio sulla natura umana, e trovare un equilibrio tra denuncia sociale, racconto umano e anche cercando uno spazio per la poesia di cui io sento bisogno al cinema è stato delicato, quindi è un percorso lungo, abbiamo lavorato 4 anni su questa sceneggiatura. C'è anche un importante elemento della magia, della tradizione, a partire dalla figura della nonna fino ai riti di piazza. Sì, perché quello che mi interessava è che è un fenomeno che ho potuto osservare nella mia vita, cioè che la generazione dei miei genitori, dopo il boom economico, in qualche modo ha voltato le spalle alla civiltà contadina, che per millenni era stata così importante in Italia. Quindi avevano voltato le spalle a tutta quella cultura lì. Pasolini, a proposito, parlava di un mutamento antropologico. E si sono vergognati, dico, al mondo lì, perché in qualche modo in televisione passava il messaggio che quella vita era una vita arretrata, una vita quasi medievale. Invece Nika, che è cresciuta con la nonna di cui in paese si diceva che fosse una strega, ha ereditato i valori della civiltà contadina e adesso li mette in qualche modo insieme a quello che ha imparato all'università, insieme ad una sensibilità chiaramente più tecnologica, più contemporanea, per cercare di creare qualcosa di nuovo, qualcosa di diverso, vuol dire costruire il futuro a partire dal passato. E quindi la tradizione del film mi interessava, ma come un punto di partenza, come qualcosa su cui costruire un'alternativa rispetto a quello che l'industrializzazione ci ha proposto, che adesso chiaramente non è più abbastanza. Questo titolo... chiaramente è un riferimento alla frase "chi semina il vento raccoglie tempesta", no? Per me Nika è in qualche modo un personaggio che scatena la tempesta e quindi che in qualche modo, mentre tutti fanno finta di non vedere quello che sta succedendo, lei vede quello che succede, affronta le conseguenze e fa venire tutti i nodi al pettine. E la linea del riscatto attraverso le generazioni è tutta al femminile. Sì, è interessante questa cosa perché è capitata un po' per caso, quindi poi scrivendo ci siamo accorti che le donne effettivamente proponevano dei modelli positivi mentre gli uomini erano dei predatori. Ed è interessante questo perché poi nel film c'è anche un altro livello di prede e predatori, perché ci sono dei parassiti che stanno attaccando gli alberi di olivo e Nika prova a trovare degli insetti antagonisti che possano debellare i predatori. E abbiamo voluto lasciare questa dicotomia un po' uomini e donne perché in fondo gli uomini hanno predato la natura, però hanno anche predato in qualche modo il genere femminile. Le donne sono state prede anche in modi diversi durante la storia. E quindi in qualche modo la lotta per proteggere la natura mi è sembrata avesse qualcosa in comune anche con la lotta per ridare dignità e liberare in qualche modo il mondo femminile e le sue prerogative. E quindi abbiamo voluto lasciare questa cosa qui. Poi c'è anche l'elemento di una sensibilità femminile molto legata alla natura, no? Perché anche i riti della fertilità, i riti legati alla dea madre, sono sempre stati una prerogativa così del tutto femminile, sia nell'antichità, poi passando per la figura delle streghe, e quindi ci è piaciuto immaginare che Nika in qualche modo sia la nuova esponente di una antichissima tradizione femminile. Che percorso farà il film con questa uscita? In quante sale? Allora, il film viene innanzitutto dalla proiezione berlinese di febbraio, era nella sezione Panorama, poi tutto si è messo un po' in pausa, adesso è stato al festival, al B-Fest di Bari, e adesso è uscito in 22 sale in tutta Italia, che è un bel risultato per un film indipendente, un film che comunque è atipico rispetto alle grandi produzioni, soprattutto in un periodo come questo in cui tante sale sono ancora chiuse. Semina il vento al cinema da giovedì 3 settembre 2020. Un saluto e un ringraziamento al regista Danilo Caputo. Un abbraccio, un in bocca al lupo, a risentirci presto. Crepi il lupo, grazie, a presto. Con Gianluca Guzzo di My Movies per presentare la selezione di film della 77esima mostra del cinema di Venezia, proposti dalle sezioni Fuori Concorso, Orizzonti e Biennale College Cinema. Gianluca, ben trovato. Ciao Federico, ben trovato e rieccoci alla nuova edizione della mostra del cinema di Venezia, un'edizione unica, come dicono un po' tutti, è probabilmente unica, lo è davvero. Sì, è proprio così, abbiamo in streaming i tanti film della mostra del cinema, ci sono anche nuovi film delle giornate degli autori e grandi film assolutamente da non perdere. Quanti sono in totale i titoli proposti? Sono 23 film in totale, dalle sezioni che abbiamo detto, quindi Orizzonti, Biennale College, Le giornate degli autori e Fuori concorso. Si parte con Molecole, il film di Segre, che racconta questa storia di una Venezia vuota e la sua ricerca anche nella sua storia, il rapporto con suo padre. Poi passando a Mila, il film d'apertura della sezione Orizzonti, e altri film molto molto molto interessanti, rimanendo sempre sugli italiani. C'è La Verità sulla Dolce Vita, e poi ci sono gli autori che abbiamo visto di Spira Mirabilis, In guerra e pace. C'è un altro film che passerà l'11 settembre, che mi sento di dover citare, che è il film nuovo di La Diaz, che come sappiamo è stata Leone d'Oro 4 anni fa. Come sarà strutturata questa proposta? La maggior parte dei film sono disponibili anche on demand per 5 giorni. Quindi in realtà abbiamo il modello classico di MyMovies, quindi la possibilità di poter vedere il film tutti insieme nello stesso momento, quindi il momento in cui si acquista un accredito, in realtà si ha la possibilità di poterli vedere o in contemporanea con le proiezioni ufficiali, quindi insieme agli altri spettatori che stanno vedendo il film insieme a noi, oppure in un secondo momento on demand. Quindi dal momento della prima proiezione, della proiezione ufficiale, ci saranno 5 giorni di tempo per la maggior parte dei film per poterli vedere. Dico per la maggior parte dei film perché in realtà i film della sezione Le giornate degli autori ci sono solamente 4 ore di possibilità per vederli on demand dopo la proiezione ufficiale. Le esperienze precedenti con la mostra del cinema di Venezia cosa ci dicono rispetto allo streaming su MyMovies? Quest'anno c'è una grande euforia, chiaramente online. Devo dire che stiamo riscontrando dei numeri che gli altri anni non avevamo minimamente visto. C'è sicuramente tanta gente che ha voluto rinunciare ad essere presente fisicamente a Venezia, al Lido, e preferisce guardare a casa i film. È un'edizione, come dicevamo, veramente unica. E questo lo vediamo anche dei numeri. I numeri sono veramente importanti, imparagonabili rispetto a quelli delle edizioni precedenti. Questo anche probabilmente grazie a tutto il lavoro che in realtà, come sai, è grazie perché poi tu ci segui sempre in queste occasioni, e come sai abbiamo fatto tanti festival, di successo anche a pagamento, quindi da una parte la cosa, il pensiero, la volontà di acquistare anche per il cinema di qualità, c'è la voglia di vedere dei film di qualità, c'è la voglia di acquistare e di spendere anche per il cinema d'autore. Questa è una notizia straordinaria. Il lavoro che abbiamo fatto da Biografi, ma passando poi per Prescreen Festival e tutti gli altri festival che abbiamo fatto, compreso l'ultimo appena concluso del Cinema Ritrovato, hanno dimostrato che gli utenti vogliono assolutamente accedere a questo tipo di opere, ed è un peccato che poi finora questa cosa non l'abbiamo scoperta, perché è sempre rimasta un po' circoscritta nell'area cittadina, quindi è il Fariste per Udine, il Cinema Ritrovato per Bologna, chiaramente la gente si sposta, molti si spostano, ma non tutti. La possibilità di arrivare a questa utenza sta dimostrando che c'è mercato, sta dimostrando che c'è voglia di accedere a questo contenuto, e questa è una scoperta straordinaria. Non per ultimo il risultato che stiamo avendo con la Biennale 2020, quindi con la mostra del cinema edizione 77, con questi numeri straordinari. Sono molto contento, molto soddisfatto dei risultati che stiamo ottenendo come Italia, come centro culturale, e tutto lo sforzo che un po' tutti stiamo facendo per cercare di sostenere questo cinema che in questo momento fa fatica. Proponete anche le schede dei lavori programmati? Sì, quella parte storica di MyMovies, che ormai quest'anno, sai, quest'anno compiamo 20 anni, è anche un anno importante per noi. Pensa, proprio partivamo 20 anni fa in occasione della 57esima edizione. MyMovies nasce proprio durante il Festival di Venezia 20 anni fa, e facendo questa cosa qui, quindi coprendo tutti i film, coprendo sicuramente tutto il concorso, fuori concorso e tanti film che poi vengono proposti. Questa parte assolutamente non la mettiamo da parte, è il core di MyMovies, è la ragione per cui siamo nati, e chiaramente continueremo a farlo. Quali sono i giorni entro quando saranno visibili? Dipende da quando partono i film. In realtà il primo film parte il 2 settembre, quindi dal 2 al 7 settembre il primo film, fino all'ultimo film che viene dato, appunto parlavamo del film di Love Diaz, l'11 settembre ci saranno ancora 5 giorni per poterlo vedere, quindi addirittura fino al 17 potremo ancora vedere il film dell'ex Leone d'Oro, per cui c'è un periodo piuttosto ampio per poter accedere, quindi non è tardi per accedere ancora ai film in streaming, proprio per questa possibilità di poterli vedere anche in differita. La selezione dei film della 77esima mostra del cinema di Venezia, proposti dalle sezioni fuori concorso, Orizzonti, Biennale College Cinema e Giornate degli Autori, in streaming su MyMovies. Un saluto e un ringraziamento a Gianluca Guzzo. Un abbraccio, in bocca al lupo e alla prossima. Alla prossima, Federico, grazie tante. Con Andrea Inzerillo, direttore artistico del Sicilia Queer Film Fest a Palermo dal 15 al 20 settembre 2020. Ben trovato. Grazie, grazie, ben trovato a te. Descriviamo questo festival. È un festival che giunge un'edizione importante come la decima, che naturalmente nei mesi scorsi abbiamo temuto di non riuscire a fare, sperando in momenti migliori. I momenti non sono precisamente ideali, però abbiamo trovato un momento nel quale è possibile portare a compimento almeno una parte di quello che immaginavamo di fare per questa decima edizione. Siamo in un momento in cui è molto difficile chiedere a ospiti internazionali di spostarsi, le condizioni del contagio in Europa e oltre Europa sono molto diverse, e quindi un'edizione nella quale puntiamo essenzialmente sui film e su una serie di presenze a distanza, mettiamola così. Presentiamo un festival che avrà le due competizioni principali, il concorso di cortometraggi e il concorso di lungometraggi, due film d'apertura e di chiusura di cui siamo veramente contenti, poi magari ne parliamo, e la sezione Retrovie Italiane come unica sezione non competitiva di questa decima edizione, per due omaggi doverosi ma anche molto sentiti, uno a Catherine Spack e uno a Franca Valeri. Quanti sono nel complesso i film presentati? 27. Sono 9 lungometraggi nel concorso di Nuove Visioni e 14 cortometraggi nel concorso Queer Short, che come sempre sono giudicati da una giuria internazionale composta da 5 membri, alla quale quest'anno, lo sottolineo per dire insomma l'impegno e la vicinanza di questi giurati, abbiamo chiesto di lavorare da casa, evidentemente soltanto un giurato sarà presente a Palermo, che è Ernesto Tomasini, un cantante performer che era già stato nostro ospite negli scorsi anni. Avevate pensato a un tema portante per questa edizione? Avevamo pensato in qualche modo di fare della decima edizione del festival un momento di bilancio, ed è quello che facciamo. 10 anni di storia sono un punto importante per una manifestazione comunque piccola, indipendente come la nostra, e in realtà lo facciamo. Presentiamo un bilancio che abbiamo definito provvisorio e aperto, e soprattutto rilanciamo con un progetto che vedrà la luce l'anno prossimo. Noi in questo bilancio pensiamo in qualche modo di aver accompagnato e di aver assistito in questi 10 anni a un cinema nuovo, a un cinema queer che soprattutto dall'Europa ha dato molti frutti molto diversi e molto interessanti per innovare il linguaggio del cinema tout court. Allora quello che abbiamo pensato e che abbiamo chiesto e che abbiamo in cantiere come regalo per la nostra decima edizione è un libro sul cinema queer contemporaneo europeo dal 2000 al 2020, cioè quello che faremo è una sorta di mappatura e di analisi critica sul cinema queer europeo, e che è un progetto abbastanza, crediamo, significativo e soprattutto del tutto inedito, e potrà essere utile a una comunità ampia di spettatori, studiosi, appassionati di festival e così via. I luoghi e gli orari? Film si svolgeranno tutti al Cinema De Seta dei Cantieri Culturali alla Zisa di Palermo. Sono previste, per le ragioni tecniche che ci obbligano appunto a sanificare frequentemente la sala, 3 proiezioni quotidiane, alle 4:30, alle 8 e alle 10:30. Nella fascia oraria pomeridiana invece ospitiamo una serie di dibattiti, assemblee, discussioni, perché appunto per noi il festival è un elemento importante della vita cittadina, ma non solo. Allora abbiamo scelto 5 temi che affronteremo con una serie di ospiti che vanno dal teatro alla letteratura, alla figura di Nino Gennaro, di cui ricorre il 25ennale della morte, fino a un confronto anche con Angelo Signorelli di La Bottanta, con il quale proveremo appunto ad approfondire la questione di che cos'è un cinema pubblico come il Cinema De Seta, il quale noi svolgiamo da molti anni la nostra attività e che ancora oggi non è quello che vorremmo che fosse, cioè una sorta di centro propulsore della promozione cinematografica nel sud Italia, ma forse anche in una più ampia area del Mediterraneo.

un grande sentiero, non solo fatto di film e di proiezioni, ma un grande sentiero vero e proprio. Ci siamo inventati anche dei percorsi per raggiungere i posti delle proiezioni e degli eventi che credo coinvolgeranno ancora di più il pubblico e renderanno ancora più interessante la rassegna. Ecco, a questo proposito, come sarà organizzata, come è strutturata? Partiamo sabato 22 con una proiezione di The Milky Way, Nessuno si salva da solo, al Museo Magalunga di Sovere, che è un rifugio vero e proprio in provincia di Bergamo, con quello che dicevo, un vero e proprio percorso che coinvolgerà il pubblico. E presentiamo questo film che racconta delle rotte, anche qui di altri sentieri, delle rotte dei migranti che dall'Italia cercano di passare in Francia attraverso i passi alpini, sfidando anche delle difficoltà molto molto molto grosse, lungo sentieri che fino a qualche anno fa erano percorsi invece magari da italiani che cercavano fortuna all'estero. È un film, un documentario di Luigi D'Alice, abbiamo già diverse prenotazioni, ecco quest'anno quasi tutte le iniziative sono a ingresso gratuito, però richiediamo la prenotazione per chi vuole partecipare. Tutte le informazioni e le indicazioni per come prenotare sono disponibili sul nostro sito ilgrandsentiero.it. E poi proseguiamo fino al 12 settembre con altre proiezioni in vari posti della provincia di Bergamo, altri rifugi ma anche in città. Per ogni iniziativa c'è la possibilità di raggiungerla per il pubblico magari a piedi ma anche in bici o chi non può in macchina. Abbiamo anche inventato una specie di gioco per cui si accumulano dei punti e chi parteciperà a più iniziative e magari utilizzando il percorso più complesso avrà in regalo una borraccia del Grande Sentiero come premio. Nel complesso quante sono le opere presentate? Sono in tutto 13 iniziative che accompagnano la proiezione di film a anche iniziative collaterali, incontri ma anche visite guidate. Voglio citarne una che è molto particolare, che è quella del 10 settembre alle miniere di Dossena. Presenteremo il film Fango Rosso di Alberto Diana, alla presenza del regista, in una location molto particolare che sono appunto le miniere di Dossena. Il film verrà proprio proiettato alle miniere e sarà possibile prima del film, il pomeriggio, alle ore 19, fare una visita all'interno di queste miniere, che sono un luogo molto particolare. Per quanto riguarda gli incontri? Sì, ci sono diversi incontri, a parte quelli con i registi, avremo dei registi ospiti, in particolare Milad Tanchir l'8 settembre per il film Star Stars, quello già citato di Alberto Diana, e anche avremo ospite il regista Mattia Colombi, il regista di Alberi che camminano, mercoledì 2 settembre alle ore 21 alla porta del Parco di Mozzo. E poi ci saranno anche degli incontri in particolare a tema biciclette, che è un tema che è molto caro al Grande Sentiero. Negli anni abbiamo fatto diverse iniziative legate alle due ruote e in particolare quest'anno il 29 agosto al Bopo di Ponteranica ci sarà l'incontro che abbiamo intitolato In Africa con due viaggiatori estremi della bicicletta che ci racconteranno il loro viaggio appunto in Africa. E poi a seguire ci sarà un reading che si chiama La mia droga si chiama bici, questa iniziativa in collaborazione con FIAB Pedalopolis, la Popolare Ciclistica e Bike Sellers e anche con il Comune di Ponteranica che ci ospiterà. I luoghi e gli orari? Sono tanti, non li cito tutti, si possono trovare sul nostro sito che è www.ilgrandesentiero.it, ci sono tutte le indicazioni per come raggiungere i luoghi, gli orari e le date. Vi invito quindi a andare a visitarlo e eventualmente se prenotarvi se avete voglia di partecipare alle nostre iniziative. Edizione estiva della rassegna Il Grande Sentiero al 12° anno, montagna, viaggi e ambiente a Bergamo dal 22 agosto al 12 settembre 2020. Un saluto e un ringraziamento al curatore Sergio Visinoni. Un abbraccio, un in bocca al lupo, a risentirci presto. A presto, grazie mille. Tutta scena cinema su Radio Onda Rossa, lo spazio settimanale dedicato alla settima arte, il giovedì alle ore 14. Tutte le informazioni, i podcast delle interviste e l'archivio delle puntate sono sul sito internet ondarossa.info, la voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.